The bloody cops are bloody keen, bloody keep it bloody clean. Bloody cheats are bloody swine, bloody drugs are bloody lies. The bloody fun and bloody games, the bloody kids in bloody blame. Nowhere to be bloody found, anywhere in Chicken Town. The bloody scene is bloody sad, bloody news is bloody bad. Bloody weed is bloody turf, bloody speed is bloody surf. Bloody folks are bloody daft, don't make me bloody laugh. Bloody hurt to look around, everywhere in Chicken Town. Bloody train is bloody late, your bloody way, bloody lost and bloody found. Stuck in fucking Chicken Town. Ciao, ciao, ciao, ciao, registrazione, ciao ai nostri avventori qui nello spazio del Jolly Roger, Civitanova Marche. Siamo qui stasera con Peggio Radio, Melting Pot, c'è un po' di fischio, un po' di rientro, togliamo un po' queste alte, taglia legna, taglia testa, vediamo se ce la facciamo. C'è un fischio tipo, fa tipo fischia, ehi, eccolo, il sound va bene. Salutiamo Daniele e Diego, fateci sentire i microfoni se vanno. Io, ciao a tutti. Bene, ne abbiamo poco di qua. Minchia. Dai, ci siamo, ci proviamo. Bene, quindi per Peggio Radio è la seconda trasmissione. Cioè noi facciamo delle robe in diretta. Vuol dire diretta non quella che ricordiamo tutti quanti da internet o cose, ma diretta fisica. Quindi siamo in uno spazio reale cercando di discutere, di parlare, di informare per quanto possibile. Ricordiamo che questi spazi che prenderemo online non sono esaustivi, non vogliamo dire delle cose che sono definitive, diamo delle visioni, dei modi. Quindi siamo con Daniele Fridays for Future Ancona e Diego Trivelle Zero. Poi nell'arco della discussione e della chiacchiera parleremo un po' bene insieme. Ospiti della serata, oggi è il 4 febbraio 2023, ci saranno poi più tardi Jacopo Buda, Mayflow e Blas DJ. Perché sempre gli spazi autogestiti propongono il vero underground e anche hanno bisogno dello stesso sostegno da parte del pubblico per tutte le spese, per tutte le spese legali, le spese di sostentamento, per le spese di portare avanti campagne politiche e lotte politiche. Stasera ci vogliamo incentrare, e lo capiamo dagli ospiti, su tutta la situazione della lotta contro il cambiamento climatico, dello svelamento forse anche di questa bugia mainstream informativa su quello che è l'energia green e i fondi e tante cose che adesso proviamo a farci raccontare. Io volevo dare la parola per primo a Diego di Trivelle Zero, sentiamo un po' che magari si presenta un pochino perché capiamo se pensiamo che questa piattaforma possa essere un punto d'inizio per tanti magari che non hanno confidenza con questo tipo di temi che stasera andiamo a trattare. Vai Diego. Perfetto, grazie mille. Io sono Diego di Falconara, del laboratorio Falcatraz, che era, nasce un po' dall'ex centro sociale occupato di Falconara il Contatto, e membro di Trivelle Zero dagli inizi. Ovviamente Falconara ci ha sempre un po' costretto con la raffineria a essere abbastanza sul pezzo sul tema. E quindi magari mi introduco come è nata Trivelle Zero, che dici? Ok, Trivelle Zero nasce in reazione allo Sblocca Italia del governo Renzi, quindi che era stato proposto da quel governo là verso fine dell'estate del 2014, poi nei mesi successivi, vari iter burocratici, insomma, quindi noi arriviamo come reazione nel 2015 a formarci, e già in quegli anni, comunque stiamo parlando di pochi anni fa, ma già le tecnologie rinnovabili sono mature, nel senso la questione climatica è nota anche nell'opinione pubblica, cominciava a essere sentita in maniera abbastanza importante, e questo era proprio uno di quei passi che andavano completamente in controtendenza, in quanto questo Blocca Italia prevedeva tra tutta una serie di anche aiuti economici o deregolamentazioni burocratiche, andava ad ampliare le possibilità per le compagnie del fossile di ricercare idrocarburi particolare, ma in mare e in terra, come la tradizione, insomma, le trivelle in Italia ci sono da molto, però questo apriva a nuove ricerche. Caso particolare del mare, appunto, già la sola ricerca di nuovi giacimenti produce già un danno ambientale, perché usavano dei sonar, insomma, stordivano gli animali, facevano dei danni anche proprio l'ecosistema dei pesci, quindi per dire solo la ricerca. E quindi ci siamo nati, insomma, come opposizione. Trivelle Zero Marche nasce nella rete dei centri sociali, l'impulso principale è stato dato da tutti i centri sociali delle Marche, però aveva raccolto, insomma, un credito presso... Sì, quasi una roba che non te l'aspettavi, nel senso che quando è nata questa cosa territoriale e ambientale, dicevo, c'era una buona risposta. Assolutamente, si erano un po' accentrate varie forze protagoniste dell'ambiente, più o meno note, anche soggettività, quindi, insomma, siamo stati anche partecipi di tante iniziative, ed è stato un periodo intenso da quel punto di vista. Comunque, trivellazioni che erano da classiche fuori Ancona Falconara fino a largo di Sinigaglia Fano, ma anche a Recanati, quindi anche all'interno, stoccaggi, cioè un argomento molto vasto. Per adesso, secondo me, mi fermo qua. Passiamo la parola a Daniele, dai, raccontaci un po'. Sì, ciao a tutti e a tutte. Sono Daniele, sono di Ancona, mi ero già avvicinato ai tempi di Trivelle Zero sicuramente all'attivismo ambientale, poi con Fridays nel 2018-2019 sicuramente questa cosa si è concretizzata, e adesso ad Ancona abbiamo un'assemblea permanente, ci vediamo tutti i venerdì, che poi appunto è un'assemblea permanente anche più ampia del semplice Fridays for Future, perché appunto poi comunque è un'assemblea dove dentro ci stanno dei ragazzi di Extinction Rebellion, dentro ci stanno dei ragazzi di Lega Ambiente, ci stanno alcuni centri sociali, quindi è sicuramente diciamo una piattaforma dove ci ritroviamo, e è stato molto utile questo movimento di Fridays anche per, come diceva Diego, già era un po' nell'aria in alcune zone, ma non ovunque, questa cosa del problema del clima, del problema del sistema che appunto sfrutta ogni angolo del nostro pianeta, del nostro paese, per i profitti e non per le persone. E comunque anche la scienza negli ultimi anni ha portato proprio le prove, diciamo, che questo sistema economico e anche estrattivo, comunque, che è basato su, appunto, sul fossile, non è sostenibile, e quindi questa cosa va cambiata, e le nuove generazioni forse l'hanno capito meglio delle vecchie, di quelle prima, per fortuna, e quindi c'è questa bella onda giovanile che da qualche anno va avanti, e ancora la portiamo, insomma è ancora attiva. Il 3 marzo ci sarà lo sciopero globale in tutto il mondo per il clima, per la giustizia climatica e sociale, quindi comunque anche stiamo già preparando, e appunto c'è questa sincronia con le varie realtà tra cui Trivelle Zero e il territorio, che ovviamente diciamo facciamo la stessa battaglia, poi ognuno con magari i suoi modi, ognuno nei suoi ambiti, chi più nelle scuole, chi più nelle piazze, chi più con la scienza, chi più in altri modi, però appunto probabilmente i master, solo qualcuno nei palazzi non ha capito questa cosa e sarebbe andargli a spiegare. Andare a spiegare in quale maniera, le maniere sono tante, lo dimostrano ultimamente anche milioni di milioni, varie storie che riguardano noi ma anche tanti altri che lottano appunto per la giustizia climatica e sociale, quindi i modi sono tanti e secondo me sono giusti un po' tutti, perché appunto il punto è cambiare il sistema e non il clima, poi qual è il modo non importa, è importante che lo cambiamo, se no non ci sarà più tempo e quindi non ci sarà più modo di farlo. Quindi stra-invitiamo comunque tutti quanti quelli che nel proprio territorio non hanno la più pallida idea di dove approcciarsi, no? Sentono questa magari vicinanza o questa emotività nei confronti dei problemi ambientali, rinchiusi nelle case, no? Sì, anzi guarda, ci sono degli studi che dimostrano, scusa, che dimostrano che proprio oramai c'è una psicosi che abbiamo penso quasi tutti. E quindi proprio c'è chi è stressato da questa cosa perché non sa in che modo fare qualcosa, perché giusto tu ti senti impotente un po' davanti a questa cosa. Io credo che l'unico piccolo rimedio che possiamo dare sono appunto le assemblee, i territori in cui qualcuno si incontra per dire no, non ci sto. Se mai dovesse arrivare questa piccola chiacchiera su uno schermo di qualche preso male dello stile, mi viene sempre l'immagine del South Park, di quella puntata in cui c'era la guerra in Iraq, tipo con la signora che stava lì presa malissimo guardando la scena delle guerre, delle bombe, e lei che praticamente era caduta in depressione sul divano piangendo, capito? No. È un po' la situazione quella di questa sindrome, no? Di questa sindrome da non so che cosa fare, quindi preferisco non fare, assolutamente, non agire, no? Allora, a queste piccole presentazioni vorrei legare un attimo dare il collante. Il collante sarà proprio una cosa che succederà a breve, perché questa è una roba adesso che succede nel reale, questa trasmissione, questo incontro, ma sarà pubblico entro pochi giorni, quindi probabilmente quando lo vedrete sarà tipo il 7 febbraio, quindi siete ancora in tempo per partecipare all'evento del 18 febbraio, dove... se mi aiutate, in cui sarà presente sia Fridays for Future, Trivelle Zero, tutti i centri sociali Marche, tutte le situazioni. Sì, il 18 sarà una presentazione di un libro, ma molto più di una presentazione di un libro, perché verranno dalla Basilicata, che è un territorio molto esemplificativo poi dello sfruttamento e dei profitti, il discorso che facevo il prima. Il modello di sfruttamento, esatto, nazionale sta lì. Esatto, perché lì da 30-40 anni più o meno si è deciso, in verità anche da un po' prima, però proprio ultimamente si è deciso di concentrare, di proprio estrarre tutto quello che c'era. Non è solo l'ENI, non è solo lo Stato italiano, ci sono più multinazionali che lo fanno, quindi è proprio diventato un territorio che hanno addocchiato, diciamo, sia perché era pieno di idrocarburi, come magari sono altri, ma sia nel libro, poi i ragazzi che verranno di Cova Contro, che è un'associazione che fa monitoraggio ambientale da anni, lo spiegano molto bene. E comunque non essendoci un tessuto sociale, come magari appunto, infatti io quando l'ho letto ho detto ma forse qua fortuna che l'abbiamo un tessuto sociale, perché poi il sistema guarda anche questo, dove non c'è, capito, che una comunità che si protegge, sicuramente sono più bravi, arrivano, raccontano una storia di lavoro, di tutto, e poi in verità è una storia finta, perché dopo 40 anni ci sono le prove che hanno devastato un territorio. La Basilicata non mi sembra essere la regione più ricca d'Italia, anzi assolutamente non lo è. Quindi cioè, nel senso, è abbastanza evidente come appunto lì ci sono fatti profitti per milioni di euro inizialmente, finché sono costruiti impianti c'è stato un po' di lavoro, un po' di indotto per chi era del territorio, però poi adesso si trovano con il Pertusillo, che è un lago che dà l'acqua a 6 milioni di persone, non solo la Basilicata, ma la Puglia, la Campania, e che è inquinato. E porta l'acqua potabile, ma non lo dicono perché l'ARPAB, un po' come qua, poi no, lì è un po' esemplificativo per questo, perché comunque anche qua, più in piccolo, ma neanche tanto, magari Diego dopo il discorso raffineria qui abbiamo il nostro piccolo brutto esempio. Quindi sì, dico un piccolo, scusa, perché poi la Juve, in verità, appunto, ci sono è vero, è più piccolo, no, ci sono più multinazionali che hanno, che fanno estrazioni a 1000 passametri di altezza, quindi dici, come fai a non pensare a inquinare poi tutto quello che c'è anche sotto? Cioè proprio non è che servono scienziati. E in verità la cosa bella è questi ragazzi, ragazze che verranno poi il 18, che appunto il libro si chiama dove? Ad Ancona, in una libreria in centro, in piazza Cavour, che si chiama Fogola Fagola, e che appunto ospiterà la presentazione del libro, e lo faremo tutti insieme, sia come Trivelle Zero, come Fridays, come campagna per il clima fuori al fossile, perché poi la parte anche più interessante, oltre alla brutta storia che loro raccontano, di cui da anni vivono proprio sulla pelle, perché andavano a fare monitoraggio con, cioè, lì nei luoghi, okay, con le bottigliette d'acqua, facendo analizzare cose, fanno questo tipo di monitoraggio da anni loro, e quindi hanno le prove proprio di questo inquinamento, però non c'è mai la prova poi da dove viene, no? L'inquinamento, cioè, c'è l'inquinamento, certo, ma certo. Il problema è sempre che non si sa chi è stato. Invece, tu lo sai, ma non puoi verificarla questa cosa. Una cosa molto bella che questi ragazzi hanno fatto è stato prendere ad esempio quello che fanno le multinazionali come monitoraggio ambientale, cioè usano i satelliti come fanno loro, perché poi il monitoraggio che fanno loro sicuramente è migliore, cioè, rispetto a quello che fa l'ARPAB o altri, e riescono grazie a questo, appunto, se c'è una fonte, un problema di inquinamento, riescono grazie al monitoraggio ambientale spesso a risalire alla fonte dell'inquinamento, quindi a creare una prova certa di cosa è stato ad inquinare quel posto. Quindi mi viene in mente Pasolini quando diceva io so, ma non ho le prove, e su sta storia, più o meno sul petrolio e le altre cose, non è finita bene. E invece appunto questi ragazzi riescono a creare le prove. Anche il libro è dedicato a un ex dipendente Eni che semplicemente scriveva, faceva il suo lavoro per bene, e si è suicidato in una maniera molto strana, perché poi appunto questo paese è pieno di ombre, e è comandato da, si sa bene da chi, non da quelli che stanno dentro il Parlamento a banficchiare, ma molto più da queste multinazionali che poi stanno in giro per il territorio, dovremmo conoscere un po' meglio. Quindi il 18 verranno questi ragazzi che le conoscono bene e fanno un lavoro, un monitoraggio ambientale, appunto essendo pochi riescono a farlo. Lo possiamo fare tutti, lo possiamo fare qua, lo possiamo fare, quindi è una cosa che dovremmo prendere, assumere e cominciare a fare anche qua, secondo me. Quindi il 18 tutti invitati ad Ancona alla presentazione del libro, che sarà anche una spiegazione del lavoro che fanno, e secondo me è fondamentale anche per piccolo brutto esempio della raffineria, che magari Diego ci può raccontare un po' meglio. Assolutamente, il caso della Basilicata è presente, insomma, tutta la filiera dall'estrazione alle raffinazioni, agli stoccaggi. E quindi è un esempio esatto dello spopolamento di una città, è l'esempio tipico che la giustizia climatica è legata alla giustizia sociale. Il quartiere sotto la raffineria, che poi la raffineria nasce come deposito nel dopoguerra, anche un po' prima, e quindi poi si allarga e si mangia la città piano piano, e poi il quartiere che si costruisce intorno, prima degli operai, poi piano piano, quindi appunto questo quartiere oggi è il quartiere più povero, più ghettizzato, più problematico della città. Guarda caso. Esattamente come succede anche per tutte le altre questioni ambientali, dai rifiuti alle discariche, penso a tutte le raffinerie della Sicilia, penso alla Campania, alla Terra dei Fuochi, alle discariche, cioè anche appunto tutti i territori che diventano devastati e saccheggiati, e quindi è proprio esatto come riferimento. Adesso magari, visto che stiamo chiacchierando, vai, tiro fuori un episodio così mio personale, un po' intimo. Praticamente il parchetto in cui c'era la mia fidanzatina, una delle prime fidanzatine in cui andavamo, stavamo lì gli ultimi anni, ci rivado, che magari una camminata, è chiuso per sequestro perché l'aria sottostante è inquinata. Minchia. Cioè, quindi per me era un momento così. Il tuo primo bacio è stato inquinato praticamente. L'importante è cosa facevi del campetto. Quindi quello, però pensa invece a tutti i ragazzini che ci sono cresciuti in quel parchetto. Io ci ho passato un po' di tempo, loro ci sono cresciuti, il loro parchetto è posto sotto sequestro perché è inquinato. Quindi c'è, poi c'è in questi territori appunto c'è l'abbandono, c'è diventa abbandono e disperazione. Ma diciamo che anche no, a quello che viene intorno, qual è il punto, cioè la raffineria, no? tutto quel lavoro lì fatto, poi questo allargamento negli anni, perché? Perché, cioè, perché queste aziende continuano ad aumentare piuttosto che diminuire? Consideriamo che negli ultimi anni l'allarme climatico, cioè comunque non è da ora che viene lanciato e non è da adesso che sappiamo qual è e quali sono gli agenti climalteranti, quali sono le cause reali, oltre a colpevolizzare i singoli cittadini nell'uso, no, di quello che i multinazionali mettono a disposizione. Petrolio è il sangue del capitale, proprio lo percepisci, il profitto ovviamente è uno dei settori in cui c'è più possibilità di guadagno, in cui sono dei monopoli, forti, oligarchie fortissime, poi andando ad allargare appunto vediamo fino all'ultimo mondiale, i petrodollari fino alla Russia magari col gas, c'è tutta una serie di legato all'energia appunto ha dei significati incredibili per la società in realtà, e quindi certo che si allargano ovviamente in tot periodi storici, diciamo socialmente poteva essere accettato perché portava lavoro, e questo qui per esempio è un mantra terrificante di vivere vicino a questi impianti, quindi partecipare a questo dibattito, ma anche in tutti gli altri territori, però nel territorio specifico è questo mantra del lavoro, è una cosa che bombarda nelle generazioni, per esempio... Ricordo Taranto. Per esempio... L'acciaieria, no? Taranto, appunto, a partire appunto dai quartieri, ma del lavoro, il ricatto occupazionale, esattamente, è perfettamente calzante, questo è un esempio che tutti ci abbiamo bene in mente, però anche una piccola realtà come Falconara, che negli anni 70, 80, 90 effettivamente per la città di Falconara poteva essere veramente che le famiglie ci lavoravano, padre, figlio, zio, e poi ma anche lì piano piano appunto il capitale negli anni, i subappalti. Aspetta, per capitale sempre questo, la sirena, capitale. Ho fatto. Esatto, sì, infatti. Capitale sirena, allarme. E quindi no, perché è perfetto, perché poi infatti la polizia aiuta sempre le forze dell'ordine, aiutano sempre loro. E quindi questo mantra qua appunto del lavoro, che poi negli anni invece è andato scemando come numeri, come effettiva utilità del territorio. Questo sogno del lavoro perpetuo. Dell'occupazione anche ben retribuita, eccetera. Che i primi che hanno problemi di salute, cioè in realtà sono le prime vittime, poi non si schierano mai, almeno nel nostro territorio, ma anzi spesso sono andati contro, però in realtà sono tra i primi che hanno problemi a fare quel tipo di lavoro là. Però appunto questa retorica del lavoro in realtà poi la smonta, io cito spesso questo studio della World Bank, ne ha fatte delle merdate. Fate del porcato. Non ne so niente. Cioè, nel senso, nel mondo, le maxi dighe, cioè, comunque non è proprio sostituente, però appunto questo dato di questa World Bank, quindi non è anche fontinoso, però dava come a parità di investimento due volte e mezzo il lavoro sulle rinnovabili che sul fossile. Il problema è appunto che il rinnovabile, questi circuiti qua sono più capillari, sono più distribuiti, sono più difficile fa oligarchie e monopoli, è un lavoro più sicuro, sì, caschi da un tetto, sì, magari ti fai molto male, ma senso non è il lavoro dell'estrazione, della raffinazione, del scavare sotto i mari, in senso non è un lavoro... Il lavoro in miniera, stile belgio, inizi fine 800, Quindi insomma, e poi parliamo appunto solo di numeri, freddi numeri liberisti e capitalisti, stiamo parlando di due volte e mezzo il lavoro, quindi l'elemento che salta è quello del profitto, quindi su questo non possiamo essere, insomma, è un numero freddo che parla, quindi questo mantra del lavoro è smontabile così. Però, già dal capitale stesso. Però questo è sempre lo solito simoro, no? Nel senso, perché se proponi magari alcuni dati me li dai, altri no, perché comunque il capitale ha interesse, no, nel produrre materiale, però che viene poi immaginato nell'informazione sempre super veloce, no? Narrazione tossica. C'è un bellissimo libro, si chiama Tutte le colpe di Pietro Ieri, ad esempio, che appunto cita e spiega molto bene come le compagnie petrolifere maggiori da tipo 80 anni sanno dei cambiamenti climatici e degli impatti che fanno, però li hanno sempre nascosti, anzi hanno pagato qualcuno per negare questa cosa ancora oggi. Ricercatori che creano ricerche ad hoc. È vero che sono i primi a fare ricerca su se stessi, quindi loro sanno benissimo quanto inquinano e dove, e sapendolo sanno anche come nasconderlo poi, quindi questo è il problema, cioè loro, tutto loro fa, cioè, è un gioco a cui giocano quasi da soli e noi siamo dei spettatori che subiscono semplicemente questa cosa, e dovremmo smettere di subirle, basta magari cercare di reagire in qualche modo, cioè oltre che di ascoltare promesse di lavoro, come diceva Diego, che poi in verità appunto si sono smontate, oramai anche i dati stessi le smontano. Il problema è trasformare, tipo una raffineria con Cari Falconara, trasformarla vorrebbe dire chiuderla, vorrebbe dire anche scoprire cosa c'è sotto, che potrebbero anche scoprire l'inchiesta che c'è, e speriamo inizi questo processo prima o poi, giusto? C'è un processo che si chiama Oro Nero per disastro, inchiesta sì, Oro Nero in teoria, disastro ambientale. Non lo scoprisse quello, lo potrebbero scoprire loro se decidono un giorno di fare qualcos'altro lì, qualsiasi cosa si faccia lì dopo loro, sicuramente tirerà fuori che non, cioè, toccherà lasciare quel posto lì per centinaia di anni a farlo spurgare. Poi anche lì le bonifiche, anche lì tutto un altro capitolo terrificante. Va bene. Vabbè, che comunque possiamo anche non inoltrarci troppo, sennò praticamente cioè, tipo, ci lanciamo a vuoto nell'oblio dei territori. E si monta la lavorazioni. Io su questo, infatti, perché comunque potevamo anche muoverci in questa direzione, però chiaramente, come sempre, c'è il foglio che canta prima della preparazione, un briciolo, no, per dire. E sarebbe stato interessante andare oltre, ma io volevo andare su una cosa che ci saremmo arrivati, su quello che è il pregnante, che è il momento. Quindi abbiamo parlato di petrolio, abbiamo parlato di grossi siti di lavorazione di carburanti fossili, eccetera. Adesso possiamo, secondo me, muoverci su quello che è l'impellenza, quello che è l'immediato reale, cioè nel senso che ci sarà una grossissima manifestazione adesso l'11 marzo a Piombino, e Piombino, no, che è il laboratorio nazionale per l'esercizio della forza politica a discapito della cittadinanza, no? E del bene comune. E se vi va di parlare un po' di questa cosina, ma faccio come quelli che fanno la TV, bellissima, prima di tutto ciò, pubblicità. No, scherzo, mettiamo un po' di musichetta, chiudiamo i microfoni, ci fumiamo una sigaretta e riprendiamo dopo. Beviamo un po' d'acqua. We'll be right back. Eccoli. Rientriamo. Noi perché siamo sempre che non usiamo riscaldamenti proprio per essere più, più ecologisti possibile. Quindi c'è un freddo merda proprio. Allora niente, dicevamo, mi sa Diego, gli va un attimo di lanciare un po' tutta questa situazione. Parlici un po' di Piombino e di cosa succederà l'11 marzo e di cosa c'è intorno. Esatto, Piombino l'11 marzo è la prima grande manifestazione nazionale di questa fase in cui appunto ritornano i rigassificatori e si collega a tutta la questione appunto geopolitica della guerra, che siamo in guerra, e di cui esattamente che fazione contro che fazione è ancora in essere, quindi stiamo vivendo la storia. E un po' una partita di calcetto, non si capisce. Insomma. Sì, che manca sempre il quinto, insomma. E però appunto questi rigassificatori che tornano a bomba e Piombino saltano le procedure classiche del dibattito democratico e istituzionale, perché appunto l'emergenza, la carenza di presunta carenza di energia di energia fossile, in questo caso di gas, e quindi appunto l'interesse di questo gas liquido che viene dagli Stati Uniti, e quindi questo cambio di rapporti commerciali, queste trasformazioni a Piombino, che già insomma è nota alle cronache ambientali perché ha un impianto, una città molto piccola, purtroppo non ci sono andato, ma è anche molto carina, questa città piccola che ha un impianto siderurgico storico molto antico e già ha problemi appunto ambientali, appunto, storico. Viene massacrata da questo rigassificatore proprio dentro la città, in barba. Oh, ma io ignoranza, ma che è il primo in Italia, no? Ce ne sono un bel po'. Perché proprio Piombino? Cioè, perché è il momento? perché che già è pregnante, è già predisposta come, cioè, il rigassificatore è anche una battaglia enorme che c'è stata a Falconara, perché appunto ci sono già impianti predisposti e anche c'è già un territorio massacrato, c'è già un bacino massacrato di popolazione. Se posso, però è proprio il discorso alla base, cioè, nel senso, il problema è proprio che non c'è per ora questo bisogno di gas, cioè in fondo non è arrivata questa emergenza, e comunque tutto questo discorso che sta uscendo adesso, piano Mattei, tutte queste cose che sparano sul gas, l'Italia è il nuovo hub del gas, andiamo in giro per l'Africa a dire che diventeremo un nuovo hub del gas, ma in verità appunto poi questo gas non è neanche per noi, quindi ogni volta parliamo di cose che non sono neanche per i nostri fabbisogni, come raffineria, come, e questi stessi rigassificatori sarebbero sì e no per tamponare minimamente la situazione, poi perché poi anche tutta la campagna che vogliono trivellare di nuovo tutto l'Adriatico per estrarre una percentuale, mi pare che è l'1,5 fabbisogno nazionale, cioè ci sono un sacco di numeri che lo dimostrano, solo il governo racconta questa favola a cui credono appunto chi vuole, però è una favola, perché appunto quello che scontiamo sono 20 anni di energia rinnovabile non creata, che oggi dovevamo già avere, quindi oggi andiamo a tamponare in queste maniere brutte, quando in verità dovevamo già avere magari tanta energia rinnovabile. Anzi, se uno guarda la mappa di dove produciamo energia rinnovabile, stranamente è solo il Sud Italia, e quindi anzi il Sud Italia su questo è quasi più avanti, nonostante è stato fatto anche un po' così. Questa campagna denigratoria continua comunque del Sud Italia come sì, mentre in verità dal punto di vista dell'rinnovabile cioè produce, è l'unico che produce un po' di energia rinnovabile, perché poi mi sembra dalla campagna in su, ma figa all'area industriale serve il carburante, no? per creare profitto e lavoro soprattutto. Il SUV non cammina da solo, eh. Più che altro sembra che non ci sia il vento a nord Italia, quindi c'è insomma al sud, c'è a nord finisce il vento, e invece appunto sarà ora di fare lo soffiare un po' sto vento in qualche modo e spingere su queste energie rinnovabili, e bastano queste favole tipo Piombino, favole anzi poi non sono favole per nulla, sono incubi insomma, sono per chi le vive direttamente, perché poi appunto ci ricordiamo l'incidente di Viareggio, che il treno che portava gas ha fatto un disastro, una strage. E quindi sicuramente perché era un treno che portava gas, noi pensiamo di trasportare gas dall'America, insomma sul piano di trasportare gas da dovunque, da un continente anche all'altro. Questa cosa del proprio reale, no? Che si sente anche nell'informazione non troppo mainstream, ma cioè gira come informazione, cioè comunque sono impianti che avranno una lavorazione, cioè per crearli, per metterli in funzione ci vorranno un botto di anni. Cioè spendere sempre continuamente questi soldi, no? Per finanziare aziende che producono ste robe, quando nel momento in cui ci stanno trattati internazionali per cui tra 30 anni devi staccare il rubinetto di tutte, e uso sempre termini mainstream continuo, cioè di staccare comunque con l'utilizzo di combustibili fossili, tu che fai? Crei una roba che ti costa una barca di soldi per poi praticamente non utilizzarla quasi. Sì, rimarranno questi ecomostri, queste cattedrali nel deserto, rimarranno questi impianti. Cioè, noi nel 2050 poi, si dice che insomma si sì, cominciano poi, a utilizzare cioè, più un cazzo, no? Io prendo la palla al balzo, su questi piani io ovviamente sono d'accordissimo, cioè da una parte veramente l'Europa è un'avanguardia, adesso anche la Germania che ha raggiunto da pochi giorni la produzione di energia rinnovabile maggiore della fossile, con tutto che succede adesso, l'Uzerat, i problemi delle miniere storiche, insomma il carbone, il ritorno al carbone appunto in tutto questo filone, però appunto l'Europa che comunque è da una parte avanguardia, però anche queste agende poi sono declinate sempre però in una mentalità clientelare, no? Di oltre lobbistica, che le lobby sono delle associazioni cioè registrate che stanno a Bruxelles e lavorano per loro, quindi è tutto diciamo coerente, però non è una cosa di complotti, cioè le lobby sono registrate e lavorano per insistere verso la politica del proporre i loro prodotti, quindi c'è una cosa che è alla luce del sole, non c'è bisogno di tirar fuori dinamiche, però anche queste agende poi sono comunque pensate, ragionate sempre in chiave anche repressiva, che alla lunga cioè in una chiave anche appunto inquinata da questo dall'idea capitalista liberista, in cui te che c'hai, guadagni 1.000 euro al mese, devi ridurre tu i consumi, devi avere tu il taglio delle emissioni, devi andare tu in autobus, tu che hai una macchina vecchia perché magari non te la puoi, magari sì, ma magari non te la puoi permettere. Quindi non c'è solo un piano che in realtà dice no, facciamo insieme un progetto. Sono piani repressivi, cioè taglio le emissioni, però viene spesso scaricato su poco. No, ma perché nel mentre l'agenda invece delle grosse lobby è quella di sappiamo che entro 15 anni ancora possiamo spingere su questa roba qui del fossile e andare sull'acceleratore e avremo un profitto tale, mentre questa pianificazione non è possibile dalla parte del singolo cittadino o della cittadinanza. Quindi la cittadinanza subisce quello che è il piano globale, anche territoriale, di sfruttamento del territorio anche a livello economico. Assolutamente. Ma principalmente a livello economico, e poi da lì scorre sulla pelle delle persone. Essere schiacciati fra due forze, nel senso che poi magari a volte sono anche la stessa, però esatto, quindi pompare il più possibile il fossile, sfruttare fino all'ultima goccia possibile, inimmaginabile di fossile, con fondi pubblici, con tutto quello che... Quindi è Piombino che si va a fare. Infatti, scusati, io volevo tornare su Piombino per far notare una contraddizione, diciamo, per fortuna che esista, insomma, che... Però a Piombino la lotta civica e ambientale della città comunque è forte, anche perché c'è il sindaco, che è di Fratelli d'Italia, che non vuole il rigassificatore, siete che è una persona che pensa magari, quindi vivendo lì. Ma lui non lo vuole perché non lo vuole nella sua città? O... Questa è una domanda che si fa a lui, perché non conosco così bene il sindaco di Fratelli d'Italia. Però no, so ci stanno che quelli che dicono non lo voglio nella mia città, ma lo va bene, certo, altrove, 50 vabbè, chilometri più in là, capito? Però imbarazza molto il governo, che c'è comunque un sindaco del partito al governo che fa questi piani e dice no, guarda, questi piani fanno manco lui se lo magna praticamente. Esatto, cioè, quindi non va proprio il tutto bene, non è. Governo, insomma, dai. E secondo me appunto sarà sicuramente l'occasione Piombino per sollevare queste contraddizioni per tutti insieme, e appunto dici usare quello come cosa esplicativa, però a noi non va bene da nessuna parte, cioè noi non siamo di quelli che ci va bene da un'altra parte, noi vogliamo proprio delle politiche energetiche diverse, completamente, radicalmente diverse, e questo andremo a chiedere il 3 con lo sciopero globale in tutta Italia, andremo a chiedere a Piombino tutti insieme l'11, andremo a chiedere in ogni occasione che potremo l'8 marzo se riusciremo in qualche modo a intersezionalizzare le lotte con le lotte transfemministe, che il problema che ci opprime è lo stesso, quindi sicuramente è importante fare anche questo, cioè capire qual è il problema e capire che quello dobbiamo cambiare, non preoccuparci di spegnere l'acqua a casa, cioè non di stressarci con tutte le cose che possiamo fare a casa, ma va bene, però non può diventare quella la lotta, non devo essere a casa, come dicevamo prima, chiudermi, deprimermi, certo, perché non riesco a far cambiare l'ambiente. Dobbiamo uscire e prenderci con chi davvero è responsabile di questa cosa, quindi come era successo il 23 settembre, all'ultimo sciopero di Fridays for Future, che c'era stata l'alluvione a Senigallia poco prima con 13 morti, lì responsabilità, si è capito molto bene di chi erano, invece in quell'occasione per fortuna gliel'abbiamo un po' riportate nei palazzi e abbiamo portato anche un po' di fango, si sono indignati tanto da minacciare denunce, fogli di via, cose varie, per un po' di fango, comunque. La gente ci ha affogata dentro quel fango e non mi sembra che sono arrivate tutte queste indagini per capire chi è stato. È parecchio, a volte è incredibile come è lampante proprio l'inganno quotidiano, no? Il mio compare di Melting Pot mi dice spesso, ad esempio, questo è un po' un aneddoto, però anche quando vai in un altro paese o prendi un altro tipo di lavoro e magari non ti trovi in Italia, ti trovi in altre condizioni, no? Completamente diverse da quelle in cui sei abituato a stare, e ti sembra tutto molto diverso e tu continui a muoverti per come ti muovi, no? E lui vorrà questo paese in cui si lavora, ma si lavora con un diverso tipo di regime, di rispetto, eccetera, e dice gli italiani arrivano qua che si ammazzano di lavoro pensando che sia quello il modo, no, di muoversi. Allora, questo per dire che, cioè, libera il tuo cervello, perché nel senso non devi, quello che tu senti non è per forza quello che è. Beh, rilassati un attimo e guarda intorno e cerca di ascoltare, tra virgolette, il tuo cuore. Cioè, se senti che qualcuno ti sta a portare per il culo, forse è proprio reale, capito? Non vuol dire che devi continuare a abbassare la testa e a sentirti frustrato tu in prima persona. Secondo me è importante non sentirsi soli, poi uno può sentirsi come vuole, cioè può essere frustrato, può essere quello che vuole, perché ognuno ci arriva per la sua condizione e se ci stai, ci stai. L'importante è capire che ne puoi uscire, cioè, intanto non sei solo, siamo non tanti, però ci siamo. Però ci sono dei luoghi, esatto, o delle persone. Ci sono dei luoghi, delle persone che la vedono allo stesso modo, e appunto ci sono mille modi di fare attivismo o fare qualcosa che sia più appunto andare oltre la propria responsabilità personale e portare quella responsabilità a chi ha creato il problema, che non siamo noi colpevoli di essere nato una generazione sbagliata o colpevoli di essere nato il paese sbagliato, cioè, quindi appunto anche su questo dovremmo riuscire a creare un contrarracconto, e tutti i momenti che ci sono ottimi per incontrarsi, guardarsi, può essere un buon momento la piazza, bisogna chiamarla queste piazze perché è un momento in cui chi si sente solo può venire e può scendere in piazza e trovare tanta gente che la pensa uguale, quindi anzi fondamentale anche dopo tutta la pandemia tutto di trovarsi, di vedersi, di fare quel no, ma poi anche quella quindi... dell'11 marzo a Piombino ad esempio è una grossa occasione, perché comunque le realtà presenti lì saranno veramente molto eterogenee, cioè tutte quante improntate sulla lotta contro il cambiamento climatico, contro il fossile, però davvero molto eterogenee, cioè parliamo anche di Greenpeace, parliamo di Lega Ambiente, parliamo, cioè, quindi anche di realtà a volte lontane da quello che magari noi conosciamo meglio come realtà di movimento, no? Per cui tante volte ci si è scontrati o meno, però se lo scopo è unitario, si parla la stessa lingua. Assolutamente, questa data è veramente importante, perché appunto se ci basiamo sull'emotività, in quest'ultimo anno abbiamo fatto, cioè abbiamo l'emotività generale con l'aumento delle bollette, anche lì pochi, è uscito poco, ne hanno parlato pochi, in questi aumenti esponenziali il livello di speculazione, perché poi dati per esempio e report, lì, per esempio si può guardare il sito di Per il clima fuori dal fossile, se so, insomma, dei documenti appunto in cui l'energia diciamo grezza costava sempre la stessa cifra, è stata rivenduta a percentuali assurde, appunto per far capire che nell'immaginario però infatti, se già eravamo comunque sempre una minoranza che spinge, si sono fatti ulteriori passi indietro, però appunto è emotiva, quindi da parte dei movimenti, da parte nostro è importante spingere queste date, ma Piombino anche dalle immagini, da quello che arriva, assomiglia tanto, per esempio mi viene in mente tutto il movimento Lombrina dell'Abruzzo, che anche lì è stato molto... molto forte e molto significativo, ma anche questa partecipazione della famigliola, delle associazioni di commercianti con il cartello, le scuole con il cartello dei vetri, cioè tutte quelle parti di società di solito tacciono, che comunque hanno i loro metodi che noi spesso anche magari contestiamo o perculiamo o quello che ci pare, però è ricordo per esempio la manifestazione di Lanciano, c'era stata Lanciano, insomma vedi proprio la città intera che si muove, quindi dimostra proprio insomma che lì l'abuso in questo caso sì, di è arrivato Piombino, fin sopra i capelli proprio, a tutti i cittadini in maniera unitaria, esatto, è innegabile, non è un abuso. Vabbè, comunque si va anche per, quindi come dicevamo, per ricordare che il rigassificatore è una, diciamo, è anche uno spot, sia proprio è identificativo del tipo di politica che spinge sull'acceleratore solo a livello di profitto, mentre tutti i movimenti, tutte le realtà locali, tutte le persone che cercano di pensare un po' con la testa un po' più libera da quella che è l'informazione mainstream, vedono il rigassificatore come una scusa per ricordare che non si vuole il rigassificatore né a Piombino né altrove, e si vuole anche delle politiche reali e serie per la fuoriuscita, cioè per non usare più carburanti fossili e impegnare l'economia pubblica invece di dare 40, 50 milioni di euro all'anno all'API o 100 milioni di euro all'anno all'ENI o cose del genere, di cominciare a girare da un'altra parte, perché l'ENI non è green. No, poi appunto una cosa che hai detto alla fine è quella, la cosa giusta, cioè noi dobbiamo chiedere un cambio di, perché noi non vogliamo nessuna un cambio parte, proprio cose, sì. Un cambio di politiche proprio, cioè basta finanziare progetti fossili come questo, come i stoccaggi, come i tubi da SNAM, il passo d'Appennino, come tutto quello che sono progetti del Letto di Vella Adriatico, cioè noi un governo che spende soldi, forze e cose su questa cosa non è il nostro governo, cioè proprio è il contrario. Ma non perché vogliamo. Questo anche ma l'altro, il PD va bene, è la stessa cosa, c'è cioè, sì. Il PD dove quando governavo, quando governa, è la stessa cosa, è un partito unico liberale, ma non è che ci sia molta differenza, chi è, uno è più colorato, uno meno, ma ti fanno tutti i profitti e insomma, è farsi guidare da poteri diciamo economici, finanziari, fossili magari, e quindi dici poi se tanto sul territorio, prendiamo esempio la raffineria, dici se poi la raffineria sul territorio paga, cioè comunque finanzia questo, finanzia ricerca, la dà una mano, fa un progetto con l'università, aiuta il giornale, poi tutta roba, tutto dentro i limiti di legge, quindi assolutamente più o meno. Però poi in generale è la politica che deve fare un passo, di no, tu non vai più bene, o tu devi convertire, devi diventare qualcosa di rinnovabile, non lo sai fare, dovresti saperlo fare, sai fare benissimo, quindi fallo, però finché non c'è una politica che lo dice... Perché se no diventiamo terroristi, non possiamo muoverci. Poi, cioè, quindi poi è pure giusto, che si sentano soli e che reagiscano poi unendosi, facendo disobbedienza civile, facendo... quello che appunto sta facendo in tutta Italia, per fortuna che c'è chi si ribella a questo sistema, però è questo che dobbiamo chiedere, non oltre che non ci sia rigassificatore a Piombino, proprio chiedere che non ci sia rigassificatore da nessun'altra parte, che si usino degli altri metodi, piano piano, bisognava pensarci prima, bisogna cominciare a pensarci subito. Cioè, arriviamo sempre di corsa, non arriviamo sempre all'ultimo, esatto. sempre. Ma sì, perché poi anche adesso per riallacciarsi al discorso... progressisti PD, il progetto dell'hub del gas nasceva anche da quelle aree lì, è stato ripreso in maniera assolutamente bipartisan, lì apre tutta un'altra questione anche per esempio il TAP, tutti i vari anche lotte minori, tra virgolette, minori in senso meno note, ma in Umbria, la SNAM, tubature dentro, parchi naturalistici in zone in cui ad alta incidenza di terremoti, quindi c'è una serie di tantissime appunto lotte che vanno in controtendenza a quello insomma che so. Comunque raga, parlando per quasi un'ora sembra, no, di dire cose che a un certo punto hanno una logica che finisce con e quindi, cioè, cosa aspettiamo? Perché tutto ciò non si realizza, no? In questa maniera, boh, io mi sento abbastanza logico in tutto questo discorso che abbiamo fatto, in senso non è che... A che ora inizia l'evoluzione? Guarda, io stasera c'è festa. Sì, infatti andiamo un po' a fare la festa perché abbiamo chiacchierato un pochino, ci siamo mossi e cominciamo a tirare su la musica e tra un po' succederà tutto il resto. Noi sempre ricordiamo... Il 18 febbraio Ancona in libreria con i compagni della Basilicata, 3 marzo Global ad Ancona Strike. Global Strike da tutte le marche, 11 marzo a Piombino, quindi insomma chi ci vuole venire a trovare lì ci siamo, e un grosso abbraccio quindi da Melting Pot Project, un grosso abbraccio dall'Officina Popolare Jolly Roger, Fridays for Future Ancona, Trivelle Zero, Fuori dal Fossile, un sacco di robina, e ciao voglio. Yo.